Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino. Buongiorno a tutti, buona domenica. Adesso esce fuori Meltzer, tenta di uscire Meltzer, resiste Panetta, resiste ancora, mancano 80 metri, ultima barriera, ormai ce l'ha fatta, è costretta a rallentare ed esce Meltzer pericolosamente, ma ormai ha vinto, non c'è più nulla da fare, Meltzer è battuto, non è riuscito il colpo di Stoccarda, medaglia d'oro per Panetta, secondo è Meltzer, terzo e primato italiano. La bellissima telecronaca di Paolo Rossi introduce il nostro ospite di oggi, Francesco Panetta, benvenuto. Ciao a tutti. Allora Francesco, era la finale dei 3.000 siepe mondiali di Roma del 1987, sono passati 30 anni, che cosa si prova a risentire, a rivedere questa gara? Tanta fatica perché sono passati 30 anni, non dovevi dirlo. È chiaro che riguardarla col tempo che passa, riguardarla soprattutto a mente fredda e ti accorgi che in effetti, ma soprattutto io quando guardo la gara, non guardo in pista, guardo gli spalti, la cosa che anche qualche sera fa mi ha colpito riguardandola, perché io non guardo, è raro che mi tocca guardare le mie gare, però ogni tanto succede, e la cosa che mi ha colpito l'altra sera riguardandola e sono gli spalti, no? Gli spalti pieni di gente. Quello è stato un mondiale veramente partecipato, ma in assoluto, non soltanto nell'occasione delle finali, ma anche durante le semifinali, le batterie durante la mattina. Quella sera lì c'erano 70.000 persone, forse più. Quindi è quello che mi, riguardandola oggi, mi colpisce, no? Sì, sì, sì. Un'affluenza sull'atletica molto forte. Adesso magari vediamo il fatto che ci siano tantissime persone che in questo periodo si approcciano al podismo, insomma alla maratona. C'è un grande flusso di persone che si avvicina alla corsa, che però forse non viene riportato, insomma, questo flusso di persone alla pratica dell'atletica, comunque a un'atletica vissuta anche da spettatore, diciamo. Sì, in effetti c'è un flusso sicuramente maggiore, ci sono sicuramente molti più appassionati di quanto ce ne fossero un tempo, perché fondamentalmente il panorama amatoriale un tempo non era così importante. Oggi c'è una divulgazione di questo sport che è enorme. Poi però i risultati soltanto di partecipazione da spettatore o quant'altro all'interno di un evento poi non rispecchiano quello che è il movimento. Soprattutto io l'ho notato quando io facevo le gare da bambina, le campestri, eravamo ai regionali tipo in 300 forse, adesso non arrivano ai 60-70 ragazzi, quindi già questo, l'affluenza proprio all'agonismo, sì, è difficile, cioè, sì, sì. Mentre appunto come dici tu c'è più presenza ovviamente nell'amatoriale per fare mezze, per fare gare anche di un certo tipo, particolari, dai 10 chilometri, insomma, certo, un po', certo, magari appunto la coro run piuttosto, sì, che sì, altri, sì, tipi di gare. E parlavamo appunto dei 3.000 siepi dell'87, insomma, ricorre il trentennale da quella vittoria e tu hai deciso di scrivere un libro che si intitola Io corro da solo. È stato un po' quasi un modo per rivivere quelle emozioni, forse? Ma intanto è stato un caso, perché io quando mai e poi mai un annetto e mezzo fa avrei pensato di scrivere un libro. In realtà è successo proprio per una serie di motivi. Uno di questi è appunto quello di cui stavamo prima parlando, il fatto di continuare a vedere che la pratica della corsa, nella fattispecie non dell'atletica leggera, della corsa, sia una pratica ormai diffusa, ormai sdoganata, anzi è diventato, come diciamo sempre, uno sport figo, no? Tu vai fuori a correre, sei diventato figo, una volta eri uno sfigato. E è proprio così. Quindi oggi per fortuna abbiamo questo tipo di atteggiamento, che però poi sfocia in mille altre situazioni. Una di queste è quella che onestamente mi dà un po' fastidio, quello che poi la gente comincia a correre ma in realtà non ha memoria storica, o quantomeno è chiaro che chi inizia non può avere una memoria storica, ma magari non si appassiona a tutto quello che c'è dietro, a quello che rappresenta la corsa, no? Che non è soltanto, come dicevamo prima, una maratona o una gara lunghissima di trail o quant'altro, non è una color run, ma lo dico con grande, sì, rispetto, sì, e tutta una serie di altre cose. E il fatto di non passare queste informazioni poi pregiudica anche, come diceva prima bene Ivana, il fatto che non abbiamo molti partecipanti, perché rimangono in quel silos e quindi magari anche i ragazzi più giovani non hanno una trasmissione di informazioni. E questo alla fine mi ha indotto a dire, insomma, non mi aspetto che lo leggeranno in 500 milioni, sì, sì, di, sì, persone, sì, però dico, insomma, la corsa è anche un po' altro. la corsa è anche fatta di mille sfaccettature, di mille sensazioni che sarebbe anche bello riuscire a trasmettere, a coglierle, no? Quindi tu racconti nel tuo libro un po' la tua storia, da quando è iniziato, da quando è che hai iniziato a correre? Quanti anni avevi? Io avevo 13 anni, sì, non è una vera e propria biografia perché è chiaro, parlo anche degli inizi, ma parlo soprattutto di una parte centrale della mia vita sportiva e non. All'interno non trovi delle tabelle perché è lontano da me quello di comunque cercare di inculcare o dare dei messaggi di quel tipo lì. Credo sì, non che è poi un manuale. Non è un manuale, anzi questo forse ha pregiudicato, diciamo, il dialogo con qualche editore importante che avrebbe voluto che all'interno ci fossero queste tabelle, ma io non ho scritto questo piccolo libro. Sì, l'esigenza di raccontare altro. Sì, diciamo, ecco, no. Quindi di consigli ne possiamo trovare sugli scaffali, sì, anche molto, quanti ne vogliamo. Quindi sì, c'è un parte della mia storia, ma soprattutto c'è quello che ha significato per me correre. Cosa ha significato per te correre? Sono curiosa. Correre, come c'è scritto in qualche brano del libro, è uno stato d'animo. Correre prescinde dal cronometro, prescinde dal risultato. Poi io mi ritengo un fortunato perché facendo una cosa che mi è venuta naturale ho avuto, tra virgolette, la fortuna di poter raggiungere dei risultati enormi, cose che molte volte non capita, anche se sei bravo, anche se hai le caratteristiche, perché diventare il numero uno significa avere anche tante cose che insieme combaciano. Quindi la fortuna è importante, non avere il mal di pancia la sera prima dei campionati del mondo, in quello io definisco fortuna. Poi io faccio sempre un esempio, perché questa domanda mi viene ovviamente posta sempre. Allora io dico, se oggi potessi esprimere un desiderio per farti capire cos'è per me la corsa, io non vorrei tornare sul rettilineo dei campionati del mondo di Roma mentre li vinco, ma vorrei tornare, che ne so, o a Otaniemi o a Vieromeke, che sono due cittadine in mezzo ai boschi sperduti della Finlandia, ad allenarmi, a fare degli allenamenti che pian piano mi hanno portato poi a dire sì, posso provarci. Ma questo appunto prescinde, perché io in quegli allenamenti, in quelli in Finlandia, ma anche in quelli che facevo intorno alla montagnetta di San Siro o in altri posti a Siderno Marina in casa mia, il poter disporre in maniera altissima del proprio corpo, capire che il tuo corpo si modifica e tu riesci pian piano a portarlo a fare delle cose, quello è correre, che va al di là del fatto che tu ottieni un risultato. È come studiare per laurearsi in ingegneria e non andare a fare la laurea che ti certifica il fatto che tu sei un ingegnere. Comunque tu sei un ingegnere. Certo, quindi sei d'accordo con me nel dire che è più importante quasi il viaggio, no? Del traguardo. Bravissima, bravissima. Questo è il concetto. È il viaggio che conta. Il traguardo, l'arrivo è la ciliegina, ma è il viaggio importante. Assolutamente. Infatti anche quando tu racconti di questa finale del campionato del mondo, tu senti già in qualche modo che quella gara ti è vicina, insomma, hai fatto tutto quello che dovevi fare per arrivare all'obiettivo. Poi logico che poi la gara in sé, insomma, racchiude, sì, sempre. Infatti in una sera, e cioè in un brano del libro, una sera, ma lo ricordo ancora in maniera viva perché è stato proprio finendo uno dei tanti allenamenti molto duri, che era tutta una serie di allenamenti che erano proprio i test che ti dicevano hai studiato bene. Finendo uno di quegli allenamenti e arrivando alla sera a cena dentro questo posto molto spartano, io proprio c'è stato un momento in cui mi isolavo, perché capivo di aver raggiunto uno stato di grazia importante, ma capivo che quell'equilibrio era talmente sottile, talmente labile, che si poteva spezzare in qualsiasi momento. Quindi la preoccupazione è stata quella di mantenere quell'equilibrio, non la paura di andare ai mondiali, fare bene, mantenere quell'equilibrio. Quella è stata, da quel momento lì in poi, è stata il mio primo obiettivo. Invece ti stai divertendo con questo libro, ti sta portando in giro molto e stai incontrando vecchi amici, no? Di cosa parlate quando vi rincontrate dopo tantissimi anni? Con altri campioni come te, tra l'altro. Parliamo che sono passati 30 anni, ci guardiamo e io poi mi rendo conto che guardo i miei coetanei e dico guarda come è invecchiato, poi mi guardo allo specchio e dico anche io, mi rendo conto che è passato del tempo. Poi la cosa inaspettata per certi versi è il fatto che sì, è vero, io ho fatto qualcosa di importante, ma dopo 30 anni avere ancora della gente che ha voglia di star lì, ad essere curiosa, ad ascoltarti, che parli e fai, questo mi ha un po' spiazzato, no? E quindi piacevolmente spiazzato. Quindi poi quando ci rivediamo è chiaro che noi, non so, quando vedo Stefano May per esempio, piuttosto che Alberto Cova, o quando mi incontro con Gelindo, poi diciamo in realtà tutti siamo d'accordo di aver vissuto un'epoca importante, fortunata e bella, perché è bello essere all'interno di un mondo ipercompetitivo, no? Noi facevamo i campionati italiani e mi ricordo che i giornali principali sportivi, la Gazzetta in testa, quando facevamo un campionato italiano faceva 9 colonne, no? Faceva 9 colonne perché lì all'interno di quella gara italiana bastava aggiungere 2 o 3 africani, un paio di inglesi, quant'altro, facevamo un campionato del mondo di cross, no? Quindi, e noi abbiamo vissuto quell'epoca da primatori, ma anche essendo anche un gradino più in basso, noi comunque siamo stati fortunati a fare un pezzo di atletica di altissimo livello. Molto importante. Infatti, quello che viene da pensare in questo caso è che i vostri nomi, insomma, no? Panetta, Cova, Bordin, risuonano anche fuori dal proprio ambito dell'atletica stessa, nel senso, almeno i nomi sono arrivati anche oltre a chi magari non seguiva neanche quello sport. Non so se io racconto mia mamma che oggi ho intervistato Panetta, lei mi dice ah, quello che correva, no, probabilmente è così. Francesco, e adesso corre ancora? No, sono guarito, come dico sempre, sono guarito, e leggendo il mio libro si capisce anche perché io poi ho smesso di correre. Io ho smesso nel 98, ma poi di colpo in pratica ho smesso, perché avevo già smesso prima nella mia mente. Oggi le rare volte, io mi ricordo le volte che vado a correre, perché mi capita una volta forse all'anno. Sono andato a correre 2 volte quest'anno e ancora non è finito, forse riesco ad aumentare il mio di impegno, perché sono uscito ad aprile in occasione della maratona di Roma, dove ero lì per lavoro. Ci sono andato quest'estate come il più classico degli amatori, sono andato sotto il Solleone a 40 gradi, ma perché avevo proprio voglia, avevo la necessità di uscire a correre 20 minuti come faccio di solito. Quindi io non vado più a correre perché per me è finita quel tipo di emozione. Io quando vado fuori a correre perché ne devo proprio sentire la necessità, e esco senza orologio, o comunque vado fuori a correre con qualsiasi cosa che possa indossare, trovo che mi... Però non hai più la necessità davvero di... Cioè, se corri solo 2 volte all'anno vuol dire che non hai mai tanta voglia di uscire anche appunto così e fare una corsetta. No, perché non è nella mia mente. In realtà a me piace molto camminare. A me capita di andare per boschi e stare anche 10 ore da solo con lo zaino in spalla a camminare, perché è una cosa che mi piace molto. Io da un anno e mezzo a questa parte, quasi 2, mi piace andare fuori ad arrampicare, vado in palestra. Adesso per esempio è 4-5 mesi che non riesco ad andare. C'è una cosa che a me accade: io non ho la fobia di fare sport, nel senso che anche se una cosa mi piace in maniera, non ho la fobia di dire oh, che succede, non ci sono andato oggi, io non mi sono allenato, non ho quella fobia. Anzi, quando comincia a diventare una routine che mi porta a diventare quasi fobico, io smetto di fare quella cosa. Ti annoia. Sì. Prima parlavamo con Ivana fuori onda un po' dei cross tipo i 5 mulini e Campaccio che lei ha fatto quando era ragazzina. Tu ne hai vinti tanti di queste gare. Sì, la 5 mulini mai, sono arrivato al massimo terzo l'anno 87, battuto da John Gugi e Koe, cioè 2 keniani che poi mi sono ritrovato in pista. Il Campaccio, se non sbaglio, l'ho vinto 5 o 6 volte. E sì, i cross per me erano una delle specialità importantissime, ma non tanto dal punto di vista agonistico, ma perché mi formavano, mi costruivano per tutto quello che era la stagione in pista. Quindi io i cross li facevo, non li preparavo, o meglio, io per esempio andavo al campionato del mondo di cross, non lo finalizzavo mai. È chiaro che arrivavo in uno stato di forma buono, ma non l'ho mai finalizzato, perché per me quella era la stagione in cui crescevo, mettevo i mattoni per costruire poi l'edificio che ha in primavera e quindi subito dopo in estate mi avrebbe portato a fare le competizioni in pista. Sono belle gare però queste, cioè prima ne parlavo con Ivana, mi è venuto voglia di andare a correre. Sì, per gli amatori sono divertenti, almeno ai nostri tempi si andava, cioè c'era la neve, c'era il fango, c'era di tutto. Ecco, vedi, Ivana ha colto perfettamente quello che è il senso. E non c'erano però neanche, cioè non c'era neanche l'abbigliamento termico. Esatto. Io ricordo il profumo, l'odore dell'olio canforato sulle gambe che rimpiango molto. Ed era meraviglioso, adesso non c'è più questa cosa. Sì, non c'è più il clima che c'era 30 anni fa, vogliamo dire. Infatti l'altra sera forse ne parlavamo e dicevamo la stessa cosa, no? C'era un ragazzo che dice, sì, ma sai, io ho fatto il cross del Campaccio. Io scherzando gli ho detto, ti sarà sembrato. Perché è vero che è sempre una diverso. Gara internazionale, ma prevalentemente oggi troviamo asciutto, è vero, magari il terreno un po' ghiacciato, perché lo facciamo sempre in gennaio, però il Campaccio proprio dal nome ti fa capire o ti faceva capire cosa andavi incontro. Io ho fatto dei cross dove entravi nel fango fino a metà caviglia, dove c'era zero gradi, e sì, come diceva Anna, io poi per abitudine io correvo sempre in canottiera e pantaloncini, okay. Quindi non c'erano né né gambaletti, né gambalotti, né maglie tecniche o quant'altro, quindi quello era il bello anche del cross. Invece dal fango, diciamo, al cross, alla pista, tu consigli spesso per gli amatori che ci ascoltano, che poi sono insomma il nostro pubblico, di provare anche la pista magari, non solo la strada, perché ci si appassiona anche la pista senza aver paura magari di approcciarsi a quel mondo, no? Perché no? Perché poi alla fine come puoi privarti, se ti piace correre, come puoi privarti di una parte della corsa? È chiaro, immagino la difficoltà, immagino anche il pudore per una persona normale che si approccia, andare dentro la pista dove magari ci sono dei matti che vanno velocissimo, dove tu frequenti un ambiente che non conosci. Però questo è un ostacolo che si può superare, infatti soprattutto anche attraverso questo tipo di ostacolo da superare passa la divulgazione, no? Se molti amatori avessero la possibilità di frequentare le piste e giocare come giocano quando fanno su strada, quando si mettono in competizione su strada, perché fare un 1500, fare un 3000, un 5000, è vero che è un compito completamente difficile, ma è divertente. Poi tu immagina quante volte puoi fare un 3000 durante l'anno e quante volte invece puoi fare la maratona, no? Lì ti puoi mettere alla prova e soprattutto affini anche delle qualità, perché non è detto che un amatore non possa affinare delle qualità facendo un tipo di attività nella corsa diverso. Sì. Si dice anche che uno possa migliorarsi di più su un 5000 rispetto a una maratona, soprattutto dopo una certa età, no? Sì, e poi quello ti porta anche a migliorarti in maratona. Infatti. Allora, ricordo il libro di Francesco Panetta, Io corro da solo, in tutte le librerie, insomma, per chi volesse approfondire la sua storia. Grazie Francesco Panetta. Grazie a voi. Verso la maratona. Iniziamo oggi la nostra tabella di allenamento per le maratone di Milano o Roma del prossimo 8 aprile 2018. Lo facciamo come annunciato con il coach Fabio Vedana. Bentornato. Ciao a tutti. Allora Fabio, mancano 4 mesi alla maratona. Come sarà il nostro allenamento, insomma, per la prossima settimana? O come iniziamo a affrontare questa tabella di allenamento? Direi come iniziamo. E quindi la parola chiave per questo primo blocco di allenamento, che durerà più o meno 4 settimane, è adattamento. Quindi in queste 4 settimane ci dovremo adattare ai nuovi stimoli che con l'allenamento andremo a creare nel nostro corpo. E per fare questo ci dovremo anche autovalutare, perché la cosa determinante è capire dove siamo, quindi farci una fotografia del nostro livello attuale. Quindi il consiglio è proprio prendersi una giornata, un'oretta almeno sul barrarla sulla propria agenda, vestirsi correttamente, trovare o una pista d'atletica o un percorso pianeggiante lineare e fare questa prova, che è un classico test che viene usato ormai da tantissimi anni, che è vedere in 12 minuti quanti metri riesco a percorrere. Prima di questo consiglio anche di fare un'attivazione, che deve essere almeno 10-12 minuti di cammino veloce, in modo tale da portare il corpo alla temperatura di esercizio giusto, visto che la stagione ormai è invernale. Sulla base dei metri che siamo riusciti a percorrere, se siamo in pista è più facile, se siamo invece per strada ci dobbiamo però avvalere di un percorso misurato preciso o di un GPS da polso, okay. In base a quello possiamo avere una prima discriminante del nostro livello e poi vedremo con una tabella in che zona ci posizioniamo. Gli altri due allenamenti che faremo nella settimana, visto che abbiamo detto che sono 3 i consigli che diamo per questa fase di adattamento, saranno prima una corsa proprio cammino corsa addirittura, okay. Per 40-45 minuti, due volte oltre al test che abbiamo proposto. Per il test, Fabio, un consiglio da dare, nel senso che immagino che non devono partire comunque fortissimo, perché comunque 12 minuti non sono pochi. Hai detto bene, 12 minuti è comunque una lunghezza per un neofita importante e quindi il consiglio è di non sparare tutte le cartucce nei primi 2 minuti. Infatti, il rischio è quello. Mantenere un passo costante dall'inizio alla fine, insomma. Sì, l'inizio devo andare più piano di quello che nella mia mente. Okay. Quindi in progressione, insomma. Parlavamo della testa di Cooper, della tabella, per avere questi parametri di riferimento che poi noi metteremo a disposizione degli ascoltatori sul sito di radio24.it, sulla pagina di Personal Best, così riusciremo anche gli ascoltatori riusciranno a capire il loro parametro, a che livello saranno per poi prepararsi a questa avventura della maratona. Grazie a Fabio e a domenica prossima. Buona corsa. E anche per oggi è tutto, vi ricordiamo il nostro indirizzo mail per i vostri commenti e le vostre domande, personalbest@radio24.it. Buona domenica. Buona domenica. Personal Best, Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.